Tony Tropcolt el var dal lac, nella bella noce di april. Sculta junt giù in sulla riva e la vus del campanil. La canzone della campana e la faccia de orologio, Geren fa capì che ormai l'era proprio mezzanoce. Un orario misterioso fin dall'alba della terra, dove i spiriti scondù, bravi o no, i se fan la guerra, dove ogni roba cambia e na gotle più sicur, dove paradisi e inferni butten giù qualsiasi mur. Tony el Sara un zicchioce e una musica lontana la ghetuca sui urecce par quasi che la chiama. Tony sculta la canzone che in quai ven l'edrea cantà. L'è una donna che la canta, ma lui el pensa di sognà, perché ormai el sempre tuch e le gna una novità, che i sogni ien propri strambi e paren quasi la realtà. Però el Tony el sente un colpo in sulla faccia rilassata, e sogno mea sogno è una bella baculada. Giuramento, se succede, scia subito la mia spada, perché sarà stanca un sogno, ma ho ciapà una gran buciada. Ghe una donna che fa luce e la viaggia sura l'onda. Alle quasi in mezzo al lac, ma col cazzo che la fonda. Ah, se stupissi de nagot, perché ormai non vedo a sé. Ma disinvi oltre ades? Che chi c'è? Me l'è il mestè. Alle sempre un catanai quando che me trovi una donna. E ades chissà se questa che, alle un fantasma, una madonna. Vescià, figura stramba, tanto ormai go più e pagura. La medisa se la vè, indemoniata de nasciura. Tony ades el fa il gradas che il gascià la sguara spada, ma che pensa quella sciura ad acqua una calmada. Tony el vede svulzà su un'onda che ghe piumba in sola crapa e se trova picà in terra come il manec de una zappa. La sua spada tanto forta se trasforma in un'anguila e ghe riu ados la sciura con la faccia che la brilla. Stacca attenta a quel che fet, rembambì della malura, e poi impara a comportas quante trovi tu una sciura. Varda be questa mia pell e il color della vestaglia, anche se fu luz, son negra, e se chiami fundalia. L'omme il resta buca aperta, adesso sei che il gapagura, fatta fundalia, tusa del lac, de tucci spirit la più sei scura. Tiseni vus che la stagio nel fond del fond del fond, neanche al sopà la più veduta, e a nessun le la rispond. Tony el pensa, come mai allora des alle che dennanzi a me, per ves venuta da fe dell'acqua, prevedi proprio un bred mestè. Pensi giusto, caro Tony, dis la sciura misteriosa. Gio in sel font studi el destin, ma me aduma per ves curiosa, ma perché me, curi el lac, e perché son la sua tusa. Dam na man a liberal de na sort che l'è schifosa. Sciura fundalia, se metti in genoc che, denanza la sua ombria, pudevi proprio mea savel che la meruava via. Me, combatti roppi stort, de quan che fo più il fare, dac pesciata tu ci diaui, oramai l'el me mestè. Ma stasera vedi ropsia de den che fa del co, e i stori che la dis, ien più sede quel che so. Se la dis che l'ac la in merda, staro mea che scondù, o che il tiri fa di petul, o che crepi in sé malù. Però ades son che var di questa anguila imbesuida e la mia sguarra spada in de cazzo l'è finita. Fatta fundaglia, le mea de certo una donna de compagnia, te la trovi mea de certo quante veta l'usteria. Fatta fundaglia, l'è la maga della dottrina del mea saù, l'è un esser che il fa pagura, l'è inutile sta chiaccia pas per il cu. Però ades a vardà la be, la sua faccia l'è tranquilla. Le denanza un bambasciot che maneggia la sua anguilla. Preoccupes mea per la tua sguara spada. Gelet shain di man, duma un zig trasformada. Nisson el sabe il mond come l'è, e tu ci veden quel che fan vede. E ciapà una sasada, però senza il buc. Te riuada un'ondada, però te set suc. Te cerchet la spada e te vedet un pes. Le la tua spada, in te la gade ves. Tony el se tuca, el se varda la spada, el ga nissun segn de nissuna buciada. Regordes duma, Tony Tropcolt, che ghe strani rop sia giù in bas che so in volt, El menom a l'enche perché sto in sul fund. Ma sarissi venuto anche se in cima al mont, pur de trovare quell'om che cercavi e pur de sentis di quel che speravi. Me e i miei fredei podum me intervenì e la classamen a mal riscia de morì, perché che un nom che ha patì trop dolor e adesso il suo cœur le venu troppo scur. El cupa, el desfa, el roba e che n'ha mai a sé, perché ormai la sapio neanche lui cosa l'el be. El me fredel squama pudaris scuscial, el me fredel algar negal, lui el cumbal, ma propis el crepa le peggio per nun, perché allora il demoni la ferma ni sen. E parli del mal che poded men avede, ma che te garantissi che il gira e che il ghe. Quell'om le cattiv disi men a de no, el pensa che ormai l'inferno il sia so. Ma le un santo in confronto a quella persona che la dà urdin de brusà la sua dona. Le un nom che se scunt de drea quella cruz che ormai le nascusa per i rob vergognus, brusa gen per be, terrorizza tuc e della pietà resterà gnanca al muc. E finché sto vescuf cui corni il comanda, nessun savrà mai che l'inferno la manda. Ma se prove tu cal col vestì che il gasseu, i te metten l'anso il fuoco e se ne parla più. Perché ormai le troppa la sua autorità e duma chi che so me la può fermà. Cioè, quel pirata tut sgrafignà che ormai de desert n'ha inscemazzà e che però l'ha mai considerà il fuoco della sua dona chi è che la pizzà. Perciò, caro Tony, el destin le quesche. La maledizione la finis duma in sé. Un nom dell'inferno è il povè sculpì duma de chi che lui la costruì. Treva il pirata e fa sme a cupà e prova fa fa quel che il gade fa. Te med mai vedu e son mai stada che. Prova a parlà e te meni insieme de me. Se trovi che la roba l'è seria, se te sbagliet quei cos, tu te l'acla in miseria. Adesso dorma, Tony, d'un bel sogno profond, come il sit, in de adesso se vo ascunt. Giunse la riva, con timbrash la sua spada, un nome il dorma, con la crapa agitata. Tut quel che ordinà quella donna bagnata, a partire duman, sarà roba fada.